24 mattino estate con Irene Zerbini. 7:15 minuti, 24 agosto, buongiorno, bentornati. I messaggi SMS al 349-238-6666 già attivi, hanno continuato anche tutta la notte. Abbiamo anche un numero verde per collegarci dalle 8:30, potete comporre l'800240024 per partecipare anche questa mattina al dibattito generato dal sondaggio. Uno studio della Commissione Europea, Equality Between Women and Men in a Time of Change, punta i riflettori sull'Italia e segnala come solo l'isola di Malta in tutta Europa abbia una percentuale di forza lavoro femminile inferiore a quella del bel paese. In Italia, inoltre, l'arrivo di un figlio riduce anche la possibilità di trovare un lavoro. Secondo poi uno studio dell'Università Bicocca, le donne lavoratrici sono anche meno garantite sul piano contrattuale. Ci sono anche aziende in controtendenza e va segnalato, ci sono aziende in Italia che garantiscono orari flessibili, possibilità di lavoro da casa, part-time, borse di studio per i figli dei dipendenti e altri incentivi. Comunque, nei consigli d'amministrazione delle società quotate in borsa, secondo la Consob, le donne in Italia rimangono il 6%. C'è una proposta di legge bipartisan che prevede la presenza obbligatoria del 30% nei consigli d'amministrazione, pena il decadimento degli eletti. E proprio su questo ci siamo soffermati. Secondo voi, e potete rispondere sul sito www.radio24.it, questa proposta aiuterebbe le donne o aiuterebbe le aziende? Ne parleremo alle 8:30. Prima però voglio fare tappa in un altro posto in Italia e do il benvenuto ai miei ospiti. Giustino Parisse, buongiorno. Buongiorno. E Vincenzo Vittorini, buongiorno. Buongiorno. Giustino Parisse è caporedattore del quotidiano Il Centro e ieri ci ha fatto un resoconto su come ci sia un fenomeno nuovo tra le macerie dopo 16 mesi di Aquila e Onna. In particolare si è soffermato su Onna. E dunque, Giustino, tu parli di turisti tra le macerie. Innanzitutto, chi è stato il primo ad arrivare a meno di un mese dal terremoto? Beh sì, no, nell'articolo racconto di questo servizio di porta a porta quando un mese dopo Bruno Vespa venne qui da noi e mi chiese se Onna prima del terremoto aveva turisti, era un paese diciamo che poteva attrarre turisti. Io gli dissi che probabilmente se turisti stavano arrivando dopo il terremoto, perché prima il terremoto Onna non era certamente un paese turistico, era un paese praticamente quasi sconosciuto, non compariva nemmeno in alcune carte geografiche. Quindi da allora purtroppo per il solo fatto tragico che siamo stati al centro dell'attenzione per tutto quello che è successo, Onna è un paese che praticamente è stato cancellato, non c'è più. 40 persone che sono rimaste sotto le macerie, fra cui mio padre e i miei figli, su una popolazione di circa 300 persone, quindi chiaramente i riflettori delle TV e della stampa in generale ha portato poi anche a questo fenomeno, a Onna, ma all'Aquila e a tutti i paesi colpiti dal sisma del 6 aprile del 2009. Ora, Giustino, tu hai condiviso con noi in questo momento anche la tua perdita personale, la tua personale tragedia. Com'è possibile che un terremoto possa diventare poco più che uno spettacolo? E come reagiscono gli abitanti di Onna che incontrano questi turisti? Ah sì, io l'ho detto quasi da subito. Il terremoto, purtroppo, per chi lo guarda e lo osserva da lontano, non è coinvolto, è uno spettacolo e quindi fa audience, questo è un fatto. Io faccio il giornalista e forse me ne rendo conto di più, ma è questo. Gli ennesi come li accolgono? A volte con fastidio, a volte con piacere. Il problema è secondo come si pone le persone, come si pongono le persone che arrivano. E poi alla fine tu dai anche un consiglio, ma vorrei ricordare, prima di arrivare appunto a questo tuo consiglio, che su iniziativa di Vincenzo Vittorini, oggi con noi, è nato un comitato qualche settimana fa, è un comitato promotore per la costituzione di un'associazione denominata 309 Martiri dell'Aquila. Cosa chiede questo comitato, dottor Vittorini? Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto sono due cose differenti. Noi prima di questa nuova associazione avevamo fondato il 7 giugno scorso una fondazione, una onlus, che è partita su iniziativa di alcuni di noi parenti delle vittime e si chiama 6 aprile per la vita onlus, per far sì che da quel momento zero, che per noi è la tragedia, una tragedia infinita, possano partire progetti di vita futuri, e poi se c'è tempo glieli illustrerò. Dopodiché ci siamo riuniti anche per dar vita a questa nuova associazione che abbiamo denominato 309 Martiri dell'Aquila, che dovrà prendere in considerazione invece tutto quello che ad Aquila non è stato fatto, non solo nelle settimane e nei mesi prima del terremoto, ma negli anni precedenti il terremoto, e quindi quello per tutelare chi non può più parlare e le famiglie, per arrivare alla verità e all'accertamento di responsabilità. Quindi sollecitate accertamenti da parte della magistratura? Da parte della magistratura, certamente, che è l'istituzione principe in Italia deputata ad andare in fondo alle cose. Invece, se posso, la fondazione invece parte, quindi l'associazione vuole puntualizzare tutto ciò che non è stato fatto prima. La fondazione 6 aprile per la vita invece ha degli obiettivi che si riferiscono a tutto ciò che può essere fatto per una nuova mentalità, che deve partire da quella tragedia per creare nuovi progetti di vita che partano dall'Aquila, ma che poi possano interessare tutto il nostro paese. Io vorrei ricordare che il nostro paese è sismico dalle Alpi fino alla Sicilia, e noi probabilmente come paese siamo molto bravi a gestire il dopo, ma non siamo affatto bravi a gestire il prima. Quando c'è una parola molto bella che è prevenzione, prevenzione che significa costruire case sicure, ma avere anche una mentalità antisismica. E quindi noi vorremmo, e quindi sarà un sogno, però ci batteremo per questo, vorremmo che l'Aquila fosse ricostruita in una maniera più sicura possibile, per far sì che la prossima calamità che accadrà faccia meno vittime, e avere anche una mentalità nuova, come quella del giapponese, come quella dell'americano della California, che convivono con questa calamità, però vivono e vivono bene e sanno anche gestirla. Noi, cioè, in Italia non sappiamo gestirla. Lei ha ricordato, tutto il paese è a rischio sismico, e quindi in maniera così che sottolinea la dignità dei sopravvissuti, questa associazione invoca una ricostruzione che sia a norma, che possa lavorare anche sulla prevenzione, possa sensibilizzare anche nel resto del paese, in maniera tale che non si debba sempre aspettare la tragedia per poi, certo, parlarne in seguito. Giustino Parisse, al giornale Il Centro, di cui tu sei il caporedattore, che tipo di reazioni avete ancora oggi da parte della popolazione? Cosa si chiede? Cosa si vorrebbe vedere realizzato? Allora, se parliamo della popolazione dell'Aquila, chiaramente si vorrebbe vedere ricostruita la città, perché questo credo che sia un concetto da ribadire ogni volta. L'Aquila è una città che deve essere ancora del tutto ricostruita. Quello che è stato fatto nell'ambito dell'emergenza è l'emergenza, quindi sono le case provvisorie. Le case vere, quelle che vogliono gli aquilani, devono essere ancora ricostruite. Quindi noi come giornale naturalmente siamo attentissimi a questo, siamo sul territorio, siamo noi stessi terremotati e quindi ci rendiamo conto personalmente delle esigenze che ancora ci sono, che sono tante. Oggi l'Aquila, come ho scritto anche, abbiamo scritto diverse volte, è una città dispersa, è una città che vive fra le nuove case, le vecchie case, le case che non hanno avuto danni, le vecchie case ristrutturate di recente, gente che sta ancora in albergo, quindi una città dispersa, quindi i problemi sono mille e questo la gente si chiede di evidenziare. E questi turisti che sono venuti anche a visitare Onna, adesso al di là dello spirito del guardone, diciamo così, e del fastidio che possono avere suscitato, sono stati invitati a guardare oltre queste macerie, e molti degli abitanti, dei tuoi compaesani, sono riusciti perfino a trovare la forza, l'energia di spiegare loro cosa fosse successo. Nel tuo pezzo sul centro ieri racconti anche di un altro tipo di visita con un altro spirito, perché vanno ricordati anche i volontari che nei giorni e nei mesi successivi al terremoto sono arrivati lì per dare una mano senza chiedere nulla. Anche loro tornano, ma l'atteggiamento è diverso. Sì, l'atteggiamento è diverso perché loro con noi hanno condiviso i momenti del grande dolore che per tanti di noi purtroppo continua, si sono resi conto di quali erano le difficoltà, naturalmente hanno stabilito rapporti di amicizia, fra qualche giorno qui ci saranno due ragazzi che si sposeranno, una è un ragazzo di Onna, l'altra è una ragazza che era venuta qui ad aiutare. Ecco, quindi si sono instaurati rapporti di amicizia e di simpatia, e la gente torna, chiede come state. Ecco, questo è il turismo bello, diciamo, che poi in realtà non è un turismo, ma è un ritorno. Ecco, queste sono le cose. È una partecipazione che continua, che non si è fermata una volta spenti i riflettori. Eppure una poetessa di Aquila, Patrizia Tocci, aveva lanciato un appello, una provocazione, aveva gridato: veniteci a trovare, venite qui, perché? Veniteci a trovare per vedere in che condizione è ancora l'Aquila, perché purtroppo il messaggio che passa all'esterno è di una città ricostruita e senza problemi, quindi... un capitolo Tocci, chiuso, un'emergenza chiusa, esatto, risolta, finita. Patrizia Tocci dice: veniteci a trovare e venite a vedere qual è la vera situazione. Grazie. Grazie a Giustino Paris, caporedattore del quotidiano Il Centro, e a Vincenzo Vittorini, presidente della Fondazione 6 Aprile per la Vita, Onlus. Buona giornata. Buona giornata a voi, grazie. E concludiamo questo segmento importante, questo rapporto che è stato quasi dimenticato ieri, così passato in cavalleria. Eppure all'Aquila c'è ancora chi lotta ogni giorno per richiamare l'attenzione, per vedere che si realizzi qualcosa. Nel frattempo anche questo fenomeno dei turisti che cercano le macerie, la foto ricordo sui resti di ciò che era. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, Deborah Rosciani, bentornata. Buongiorno a tutti, buona giornata. Per tutta la settimana la lettura della rassegna stampa ti è affidata, quindi noi, esatto, ti seguiremo più che volentieri, da segnalare in primo piano oggi. Ma guarda, vabbè, naturalmente prosegue il dibattito politico che accende sempre di più i toni, anzi siamo arrivati anche alle parolacce di nuovo ieri, ma quello che stamattina mi ha incuriosito parecchio, ne avevo sentito parlare anche nei TG ieri sera, la gravidanza di Gianna Nannini. A 54 anni, so che tu oggi ti occupi di quote rosa, insomma una bella scommessa mi sembra, una bella partita quella che sceglie di giocare questa grandissima rockstar italiana, che ne pensi? Gravidanza a 54 anni, e che io la invidio per l'energia, perché so il tipo di forza che richiede. Ti lancio un tema per le tue prossime trasmissioni. Donne nei CDA invece è quello di oggi, la quota del 30% obbligatoria come prevista in una proposta di legge bipartisan. Secondo voi farebbe bene alle donne o aiuterebbe le aziende? Le due possibilità che vi abbiamo offerto sul sito www.radio24.it per votare il sondaggio di bianco o nero. In primo piano. In primo piano con Deborah Rosciani questa settimana per leggere insieme a voi le prime pagine di tutti i quotidiani in edicola in questa giornata e naturalmente soffermarci sui casi più interessanti, sulle storie più interessanti e naturalmente il dibattito politico, il nuovo scontro che si sta consumando, sta ancora alimentando le cronache politiche, i commenti un po' di tutti. Noi cominciamo con il Corriere della Sera. E allora c'è questo nuovo scontro nella maggioranza, come vi dicevo prima sono volate di nuovo parolacce. Casini ha accusato Bossi, la replica di Bossi a Casini è una parolaccia, appunto, come vi dicevo, ma siccome io vorrei non pronunciarla, ma visto che la scrivono tutti quanti questa mattina, Bossi candidamente ha detto a Casini di essere uno stronzo, si può dire. I finiani vogliono l'UDC al governo, così titola il Corriere della Sera. Bisogna aprire anche a Rutelli e ai delusi del PD. Per il Popolo della Libertà questa proposta è però un film. I finiani chiedono a Berlusconi un nuovo governo con i centristi. La proposta è di aprire a UDC, Rutelli e ai delusi del Partito Democratico. Per appunto il PDL è un film e Casini accusa Bossi sulle banche. Pierluigi Battista ha il commento principale su tutto questo dibattito. Il suo commento sul Corriere si intitola "La questione immorale di trafficoni e trafficanti, si è arrivati addirittura allo stronzo, che non si fossero mai amati o stimati anche negli anni in cui erano alleati era notorio, ma che tra la Lega e UDC dovesse finire in uno scambio cruento a base di trafficoni, Bossi a Casini, e trafficanti di banche e quote latte, Casini a Bossi, non era così scontato". Molto divertente la vignetta di Giannelli sulla prima del Corriere di questa mattina, si sofferma sulle quote latte, Silvio Berlusconi è raffigurato come una grande mucca da mungere e viene munto in questa vignetta da Umberto Bossi, ma Berlusconi si gira verso di lui e gli dice: "Umberto, non esagerare, ci può essere bisogno di darne un poco", si riferisce al latte, anche all'UDC. In primo piano fisco per le famiglie e federalismo, questo sarebbe lo scambio scaccia urne, perché poi all'interno c'è l'approfondimento. Berlusconi è pronto a chiedere a Casini di votare il decentramento e a Bossi il quoziente familiare pur di rinviare l'appuntamento elettorale. C'è una lunga lettera sul Corriere della Sera. Il Corriere ospita questa lunga lettera di Walter Veltroni. "Scrivo al mio paese e vi dico cosa farei. Scrivo agli italiani che tornano a casa, a quelli che non si sono mossi perché lavorano o perché non possono lavorare. Scrivo agli imprenditori che fanno e rifanno i conti della loro azienda chiedendosi perché metà del loro lavoro in un anno debba andare a finanziare uno Stato che non riesce a finire da sempre la costruzione di un'autostrada come la Salerno-Reggio Calabria o che alimenta autentici colossi del malaffare come quelli emersi in questi mesi. Il vi dico cosa farei non ve lo anticipo, potete leggerlo a pagina 10 del Corriere della Sera". Su tutti i giornali la vicenda Fiat che non fa lavorare i tre operai reintegrati, titola il Corriere. C'è l'appello anche al presidente della Repubblica Napolitano. I tre operai della Fiat reintegrati dal giudice del lavoro sono entrati nello stabilimento di Melfi ma non hanno potuto svolgere attività lavorativa. A Giovanni Barozzino, Antonio Lamorte e Marco Pignatelli è stato impedito l'accesso, come si sapeva che Fiat peraltro avrebbe fatto, alle postazioni nella catena di montaggio, ma due di loro, delegati FIOM, potranno continuare a svolgere attività sindacale all'interno della fabbrica. La FIOM Basilicata intanto ha presentato ai carabinieri una denuncia contro la Fiat per inottemperanza alla sentenza di reintegro. I tre lavoratori hanno preparato questa lettera a Giorgio Napolitano. La storia del Corriere della Sera, quella di Caster Semenya, è l'atleta dal cosiddetto sesso contestato, una storia che viene raccontata da Gaia Piccardi che lo intervista. "Corro, dice l'atleta, e sento quegli sguardi, uomo, donna, ermafrodito, sono un essere umano, una persona, nient'altro. Se l'anima non ha sesso e non ha nulla a che vedere con i mocassini numero 46 e i pettorali che premono sotto la polo, Caster Semenya è senza ironia una bella donna che ha solo un sogno, essere amata". Andiamo alla prima pagina del Sole 24 Ore, il titolo principale dedicato al nuovo scontro fra Fiat e FIOM. I dipendenti reintegrati entrano in fabbrica ma non tornano al lavoro. C'è anche un'intervista a Sergio Chiamparino che dice che il braccio di ferro in corso fra il sindacato e il Lingotto è un errore e invita a puntare sulla produttività. Il Sole, come storia, sceglie di puntare sul cosiddetto miracolo in Cile, quello che si è verificato e che riguarda i 33 minatori intrappolati a 700 metri di profondità nel deserto di Atacama, speriamo di averlo pronunciato correttamente. In sostanza, questi minatori sono ancora vivi e possono essere salvati, ma l'operazione di salvataggio richiederà almeno 3 o 4 mesi. Questi minatori sono bloccati in questa miniera di San José dal 5 agosto, però addirittura insomma si erano perse anche molte speranze per poterli salvare, invece a quanto pare si riuscirà in questa operazione che sarà comunque piuttosto complicata. Altri due titoli che scegliamo dalle Sole 24 ore. Più occupati in Germania, ma Eurolandia non corre. Nonostante la crisi dell'anno scorso, la Germania potrebbe chiudere il 2010 con un numero medio di disoccupati pari a 3.200.000, 250.000 in meno rispetto al 2009 e oltre 1.500.000 in meno rispetto a 5 anni fa, ma il dinamismo di Berlino non basta ad imprimere una scossa all'eurozona. Domani, peraltro, il governo tedesco vara la legge sulla ristrutturazione bancaria. Secondo fonti ufficiali è prevista anche l'introduzione di una tassa per finanziare i salvataggi degli istituti di credito. A proposito di banche, un'altra cosa che vi segnalo dal Sole 24 ore, noi peraltro che abbiamo ripreso Salva Danaio ogni giorno alle 12, di questo argomento ci occuperemo giovedì, c'è la gelata sullo stop alle rate dei mutui. È stato varato nei giorni scorsi il cosiddetto fondo di solidarietà per sostenere le famiglie che hanno bisogno di sospendere il mutuo, ancora adempimenti incompleti, il fondo dovrebbe partire il 2 settembre, ma le banche da parte del Ministero sono ancora senza indicazioni precise, per cui probabilmente bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Un'altra notizia al volo dal Sole 24 ore, panorama, i matrimoni misti al 14% del totale, triplicati in 15 anni, nel giro di 15 anni i matrimoni misti in Italia sono appunto triplicati, l'aumento è stato di quasi il 10% annuo, nel 2009 i matrimoni sono stati circa di natura mista per l'appunto 35.000, il 14% del totale delle unioni. Emerge però una netta differenza fra centro-nord e sud, percentuali più alte in Emilia-Romagna 15%, Lombardia 13,5%, Liguria 13%, fenomeno invece molto meno diffuso al mezzogiorno. Sulla vicenda di Fiat vi segnalo all'interno delle pagine delle Sole 24 ore l'intervento di Federica Guidi, presidente dei giovani di Confindustria, che dice: la posizione FIOM è pretestuosa, non trovo così sconvolgente che un'azienda in attesa di una sentenza definitiva decida di fare un reintegro senza restituire le mansioni abituali. Mi sembra una prassi, non dico consolidata, ma neanche inedita. Non è la prima volta che succede. E poi due interviste a due sindacalisti, a Giuseppe Farina, segretario della FIM CISL, ora priorità agli interventi, e a Susanna Camusso, vice segretario generale della CGIL, serve ora un confronto sul lavoro. Andiamo alla prima pagina della Stampa. Ancora sulla politica, i finiani, governo senza la Lega con centristi e PD, è l'idea di Bocchino, che però ha ricevuto tanti no per Cicchitto e Fanta politica. Il commento, tra i commenti più importanti che oggi la Stampa sceglie appunto di mettere in primo piano sulla prima pagina, è quello ancora una volta sulla iniziativa del presidente francese Sarkozy sull'espulsione appunto dei Rom che ha fatto tanto discutere nei giorni scorsi. Dopo le prese di posizione di Maroni e Sarkozy, immigrati, l'Europa contro Roma e Parigi, le regole vanno rispettate, sull'immigrazione arriva da Bruxelles il richiamo a tutti gli stati membri della Unione Europea ad attuare correttamente le regole europee. Stiamo monitorando da vicino le varie situazioni, ha detto il portavoce della vicepresidente della Commissione Europea Viviane Reding, rispondendo a chi le chiedeva di commentare le iniziative intraprese sui Rom da Sarkozy in Francia e dal ministro Maroni in Italia. Due commenti, quello di Dominique de Villepin, una macchia sulla nostra bandiera, e di Michele Brambilla, prima va rispettata una legge. Su Fiat, scontro aperto tra Fiat e FIOM, reintegrati a Melfi i 3 operai licenziati, ma non lavoreranno. La Stampa all'interno delle sue pagine riporta la storia di Gianna Nannini, a pagina 33. Massaro, mamma 53 anni, poi vi segnalo anche, a rischio il pomodoro made in Italy. Gli agricoltori ce li pagano 35 euro a tonnellata, non conviene più coltivarli, insomma a rischio anche la pomarola italiana, magari ci ritorneremo nei prossimi giorni anche su questo argomento. Andiamo alla prima pagina di Repubblica. In fabbrica, ma senza lavorare a Melfi, la FIOM denuncia la Fiat, i tre operai licenziati riammessi nello stabilimento, non nella produzione. L'azienda dice: difendiamo la libertà d'impresa. C'è un commento di Gad Lerner, un'analisi anzi, intitolata Il diktat di Marchionne sulla politica, i finiani all'attacco, nuovo governo insieme ai centristi, c'è la replica del Popolo delle Libertà, ipotesi da film, e anche Repubblica naturalmente ricostruisce lo scontro nuovo che si è consumato fra Bossi e Casini, e poi insomma si racconta un po' proprio come è maturata ieri questa proposta del capogruppo dei finiani Italo Bocchino, appunto, di allargare la maggioranza a Casini, Rutelli e ai delusi del PD. In prima pagina Repubblica mette anche l'appello che la Premier Dam Carla Bruni ha rivolto all'Iran di non lapidare Sakineh. C'è questa storia di questa donna iraniana che i giudici hanno accusato di aver avuto rapporti illeciti con due uomini che non erano suo marito, l'hanno condannata alla fustigazione e dopo aver subito 99 frustate, la donna ha confessato la complicità nella morte del marito, probabilmente indotta anche da questa punizione estrema, è stata condannata alla lapidazione, ma si stanno moltiplicando gli appelli per salvarla. Solo su Repubblica.it ci sono 16.000 adesioni a questo appello, e anche questa adesione eccellente illustre appunto di Carla Bruni. La prima pagina del giornale: Fini si lancia al governo con il PD, il presidente della Camera getta la maschera, il suo capogruppo Bocchino attacca ancora Berlusconi, monarca aziendale, e propone una maggioranza demenziale, commenta il giornale, è peggio di una provocazione, è il trionfo dell'ambiguità, una presa per i fondelli degli italiani, insomma senza mezzi termini, così il giornale commenta questa iniziativa di Bocchino. Vittorio Feltri, un altro editoriale, dopo quello di ieri, ritorna sulle vicende di Fini, della famiglia Tulliani, ricostruendo il miracolo economico della famiglia, della compagna del presidente della Camera. Come hanno fatto i Tulliani, che fino ad alcuni anni prima erano in bolletta, a diventare proprietari di un patrimonio valutato intorno a 20 milioni di euro, cioè 40 miliardi di defunte lire, moltiplicando per 40 la famosa vincita all'Enalotto? Tradisce questa mia domanda, dice Feltri, che non è maliziosa, una profonda ammirazione per l'abilità finanziaria della famiglia. Non siamo agenti del fisco, non intendiamo fare le pulci a nessuno, dice Feltri, ma non ci occuperemo di questa storia se non fosse che sullo stato di famiglia dei Tulliani figura anche Gianfranco Fini, presidente della Camera, e quindi per questo appunto evidentemente Feltri ribadisce le motivazioni per cui indaga così a fondo su questa vicenda. La prima pagina del giornale è anche una foto di Veronica Lario. Come sapete, si sono riaperte le trattative sulla separazione con Berlusconi, trattative per modo di dire, una battaglia molto importante, una montagna di soldi e ancora non basta. Andiamo al Libero rapidamente. Tulliani, affari fantasma, quando il cognato voleva fare il velino si scopre che il fratello di Elisabetta Tulliani appunto cercava raccomandazioni per sfondare in TV. Non c'è traccia dell'immobiliare che la famiglia dice di avere negli Stati Uniti. Giancarlo contraddice Fini: non conosco le società che comprarono la casa di Monte Carlo. Il giovane, sostiene Libero, non ha i requisiti economici per vivere nel Principato. E sulla proposta di Italo Bocchino, il commento del direttore Maurizio Del Pietro: le sparate di Bocchino a contenuto zero, e il commento di Franco Bechis: Berlusconi costretto ad un salto nel buio. In primo piano. Vabbè, non mi ricordo ancora bene quando intervengono le presentazioni della sigla. Peter, abbi pazienza, domani mi perfeziono anche nell'ingresso in trasmissione dalla sigla. Adesso andiamo al Messaggero. I finiani, governo con i centristi, lo scontro nel PDL, Bocchino allargare a Casini, Rutelle parte del PD, la Russa parla di fantasie, e poi di nuovo tutto lo scambio di parolacce che si è verificato ieri fra Bossi e Casini. Vi leggo però anche altre notizie in prima pagina sul Messaggero. E allora, ieri c'è stata questa proposta proposta che non si sa quanto abbia del veritiero e quanto invece del profondamente provocatorio, del sindaco Alemanno che dice bisogna ricostruire Tor Bella Monaca, a ottobre il piano di una città giardino, cancellare uno dei pezzi più degradati della periferia romana per ricostruire, il sindaco Alemanno ha lanciato l'idea e propone di farne una città giardino sul modello della Garbatella, un quartiere oggi gemellato con Belleville, Parigi, diventato nel frattempo un esempio minimalista di buona urbanizzazione, al contrario di Tor Bella Monaca, dove ci piove dentro e dove la qualità di vita dei cittadini è pessima. Arriva il sì degli urbanisti, ma l'opposizione protesta. Si tratta di una proposta velleitaria, il primo cittadino capitolino però poi rilancia: a fine ottobre presenteremo un master plan della zona e faremo un confronto diretto con i residenti, perché vogliamo attuare un'urbanistica partecipata e non calata dall'alto. Il calcio riparte in prima sul Messaggero, sabato prende il via il campionato, doppio colpo delle romane, Ranieri è pronto il rinnovo, giallorosso fino al 2013, Lazio accordo con l'Edesma e poi il tema dell'allarme sicurezza negli stadi, gli ultra rifiutano la tessera del tifoso, anche questo è un tema insomma che farà molto discutere nelle prossime settimane. Il commento sulla vicenda Fiat è affidato al nostro Oscar Giannino, che parla di chiarezza chirurgica e del tema del quale si occuperà questa mattina anche nella sua trasmissione delle 9. L'Unità in prima pagina mette Gianni Alemanno, ma non per le proposte sulle sorti di Tor Bella Monaca, ma che perché pare che il sindaco della capitale avrebbe intenzione anche di abbandonare il suo ruolo. Troppe rogne, e questa appunto la notizia, vi ripeto, in prima sull'Unità, il sindaco sarebbe tentato di affiancare Berlusconi nella nuova marcia su Palazzo Chigi. Arrivederci Roma, la vasca dei delfini, il ruolo del primo cittadino nel centro-sud e i rapporti con Tremonti, l'editoriale sull'Unità di Emiliani. Andiamo al Fatto Quotidiano, in prima naturalmente ancora lo scontro politico, corsa al voto con insulti, Bossi e Casini se le danno di santa ragione, la campagna elettorale è già cominciata e promette il peggio sul processo breve, lo scontro finale Caimano Fini, e il Fatto apostrofa la proposta di Bocchino proprio come una bizzarra proposta. Andiamo al Riformista, che invece titola come tema principale la guerra di Melfi, linea dura del Lingotto, il sindacato replica con una denuncia, operai respinti, 3 licenziati reintegrati dal giudice ieri si sono presentati in fabbrica ma sono stati bloccati dall'azienda, la FIOM vuole portare Marchionne in tribunale e Sacconi, che ieri era al meeting di Rimini, ha chiesto il rispetto della sentenza. Poi sulle altre proposte che ieri Sacconi ha avanzato dal meeting di Rimini ci ritorniamo tra un attimo. Il Riformista in prima mette anche la segnalazione di un'intervista che poi ritroveremo a pagina 7 al vescovo di Ratisbona, Monsignor Gerhard Ludwig Müller, il prelato tedesco al quale Benedetto XVI, il Papa, ha chiesto di curare personalmente la raccolta di tutti i suoi scritti, al quale è profondamente legato. E beh, insomma, c'è una bella intervista di Fausta Speranza a Müller, e ieri Müller era alla giornata, appunto è stato domenica la giornata inaugurale del meeting di comunicazione Unione Liberazione, ha presentato per la prima volta il volume numero 1 dell'opera Omnia di Ratzinger e ha accettato di parlare con il Riformista proprio del momento che vive la Chiesa Cattolica. Il Papa, ha detto Müller, soffre moltissimo per le vicende della pedofilia che hanno reso la Chiesa così poco credibile e hanno oscurato l'immagine del prete buon pastore. Volevo andare al secolo XIX, ricambiamo completamente argomento, andiamo ancora alle pagine economiche, perché si tornerà probabilmente nei prossimi giorni a parlare del caso Tirrenia, che sarebbe ad un passo dal diventare un problema di ordine sociale. C'è una protesta in vista, l'azienda il 30 al 31 agosto si metterà in sciopero e quindi creando ulteriori tensioni, soprattutto perché sarà ancora un momento molto delicato per il rientro dalle vacanze. Il ministro dei trasporti Altero Matteoli ha diffidato la Will Trasporti dall'intraprendere una protesta considerata illegittima. Il sindacato gli ha risposto che intende andare avanti sullo sciopero del 30-31 agosto, additando il governo come responsabile dei disagi che patiranno i passeggeri. Il gruppo, come sapete, per il gruppo è stato dichiarato lo stato di insolvenza e il pomo della discordia di questa nuova protesta, che appunto si concretizzerà con lo stop dell'attività del 30 e del 31 agosto, è il cosiddetto periodo di franchigia estiva concordato, entro cui non sono consentiti scioperi perché causano eccessivi disagi ai passeggeri. E sul secolo XIX anche le indicazioni ai viaggiatori, che si troveranno ovviamente a diventare nei prossimi giorni nuove vittime di questo disagio, perché di fatto hanno un biglietto in mano, magari non sono nelle condizioni di poter cambiare mezzo di trasporto per andare o rientrare dalla località di vacanza. Cosa fare e a chi rivolgersi se si ha il traghetto prenotato per il 30 e il 31 agosto, e chi vuole pagare biglietto dovrà pagare una penale del 10%. Andiamo al Foglio, del quale vi segnalo la lunga analisi di Mattia Ferraresi sulla storia che conosciamo da poche settimane di Wikileaks, il sito che pubblica documenti militari segretissimi, fondato da Julian Assange, che tra l'altro qualche giorno fa è ritornata alla ribalta della cronaca perché è stato al centro anche di accuse di molestie sessuali dalle quali è stato rapidamente assolto. E beh, Mattia Ferraresi, riportando anche quanto riporta la stampa americana in questi giorni, dice di Wikileaks: sappiamo tutto ma non sappiamo nulla. Per paradosso, il sito creato da Julian Assange per praticare l'arte della trasparenza perfetta, inchiodando governi e agenzie sulla croce del loro colpe con pubblicazioni scomode, è un fiume torbido, una notte in cui tutti i segreti sono ugualmente pubblicabili ad eccezione dei propri. Se Wikileaks avesse uno statuto, il primo articolo reciterebbe pubblicare tutto e tutti gli altri articoli rimanderebbero al primo, ma proprio per onorare l'idea che ogni apparato sia malaffare in potenza, il sito non ha uno statuto, non ha società registrate né strutture legali dai contorni definiti, soltanto cibernetici comandamenti incisi su server protetti in Svezia, Belgio, Islanda e chissà dove ancora. Uno dei dogmi degli iniziati di Assange impone di non rivelare i nomi dei donatori che foraggiano il sito. La prima pagina del giorno: Fiat congela i tre operai in rissa, e poi la foto a tutta pagina di Gianna Nannini, la rockstar, 54 anni, avrà un figlio con l'inseminazione artificiale. Il giorno ne appare appunto assolutamente convinto, è single. Poi c'è una lettera che, oltre che sul giorno, compare questa mattina anche su altri quotidiani. È una lettera che ha scritto la mamma di Giulia Minola, la giovane che ha perso la vita nella calca di Duisburg nelle scorse settimane. La mamma di Giulia ha scritto ai tedeschi: voglio giustizia per Giulia e per gli altri ragazzi morti alla Love Parade. Oltre al caso di Fiat, della vicenda appunto di Melfi, vi segnalo anche quello che sta accadendo a Palermo, dove altri lavoratori, sono insegnanti precari, stanno organizzando questo presidio permanente davanti all'ufficio scolastico provinciale di Palermo, perché con le novità arrivate con il Ministero dell'Istruzione stanno rischiando di perdere il loro posto di lavoro. Ci sono anche degli scioperi della fame. Uno di queste persone, ieri questa storia è stata raccontata anche da molti telegiornali, ieri si è sentito male perché ha anche delle condizioni di salute molto precarie, per cui non sta mangiando, non si sta alimentando da giorni, non prende le medicine, per cui è una situazione piuttosto delicata. E allora sul Manifesto si racconta molto dettagliatamente la storia di questi lavoratori precari. La Sicilia peraltro da questi tagli del Ministero sarebbe particolarmente colpita. Venerdì comunque andranno tutti a Montecitorio proprio per spiegare insomma le ragioni di questa contestazione così dura, e vedremo insomma come finirà. Tante altre cose sui giornali e noi non riusciamo naturalmente a fare tutto. Io ritorno alla nostra Irene Zerbini. Guarda Irene, ti ho trovato anche questa inchiesta della Stampa su cercasi asilo disperatamente. Mi sembra che un pochino sia pertinente al tema che affronterai tra poco. Come si combatte infatti la discriminazione femminile o l'esclusione delle donne dalla stanza dei bottoni? Con incentivi, interventi, supporti di questo tipo. Ci sono perfino aziende in Italia, Deborah, che offrono assistenza ai genitori della donna manager. in modo tale da svincolarla da altri obblighi che spesso le donne si accollano. Però queste notizie non le sappiamo, bisogna proprio cercarle, raccontarle, dobbiamo fare un gran lavoro, Irene. Grazie, grazie. Affido il microfono molto volentieri stamattina. Grazie a Deborah Buona Rocciani, giornata a tutti. Buona giornata, la ritroveremo alle 12 a Salvadanaio, ritorno sulla casa, la cedolare sugli affitti e tutti i cambiamenti in questo ambito. E poi domani mattina per la rassegna stampa, voi continuate a partecipare al nostro sondaggio di bianco o nero, scatta alle 8:30 al momento del dibattito, intanto potete votare sul sito www.radio24.it. Quote rosa sono state definite in maniera così piuttosto svilente, comunque c'è una proposta di legge che vuole in qualche modo correggere una discriminazione in atto, sono solo il 6% dei consiglieri le donne presenti nei CDA delle società quotate in borsa in Italia. Come intervenire? Una proposta di legge bipartisan, portarle almeno al 30%, pena il decadimento del consiglio d'amministrazione. Una proposta del genere aiuterebbe le aziende o aiuterebbe le donne? Questo vi abbiamo chiesto. A più tardi. 24 mattino estate. Ancora insieme, buongiorno da Irene Zerbini. Come siamo guardati da lontano, visti da fuori? Però con qualcuno che abbia quella conoscenza che solo la vicinanza ti può assicurare. Questo è un po' lo spirito con il quale stiamo affrontando l'incontro con i corrispondenti stranieri e oggi diamo il benvenuto in trasmissione a Gina Marques. Buongiorno Gina. Buongiorno. Gina è la corrispondente brasiliana per Globo News e collabora come inviato speciale anche, non solo per la televisione, ma anche per il quotidiano brasiliano Folha de São Paulo. Da quanti anni sei in Italia, Gina? Da moltissimi, da 2 decadi. E immagino ti abbiano chiesto spesso di spiegare quella che è la vita quotidiana di questo paese. Esatto, questo mi chiedono e proprio anche gli sguardi del corrispondente proprio per le, tra virgolette, le bizzarrie di un popolo, no? Perché ormai le grandi notizie sono date dalle agenzie di notizie, o mi chiedono degli approfondimenti su queste grandi notizie, oppure delle cose che solo chi vive nel paese, nel caso dell'Italia, può raccontare. E facciamo un esempio di qualcosa di cui tu ti sei occupata, hai scritto. Dunque, su queste bizzarrie, ad esempio, sono state delle leggi locali in cui tante volte la popolazione ignora. Ad esempio, a Deboli sembra che c'è una legge che divieta il bacio dentro una macchina. Poi la questione dei kebab a Lucca, che sono stati vietati negozi di kebab. Poi del massaggio sulle spiagge di Capri, che sembra che c'è una multa di 10.000 euro addirittura per chi le fa e che le prende il massaggio. Così una serie di leggi che gli italiani stessi ignorano l'esistenza. Lo conoscono poco e invece poi finiscono in prima pagina sui giornali stranieri. E da São Paulo, o comunque dalle vicinanze in Brasile, dai tuoi lettori, che reazione hai avuto? Una reazione un po' con un sorriso in bocca, molti increduli che dicono no, non è possibile una cosa del genere, invece lo è. E immagino che essendo tu brasiliana avrai dovuto anche nei tuoi rapporti con gli italiani avere a che fare con dei cliché che gli italiani hanno sui brasiliani. Ti è capitato mai di dover chiarire alcuni aspetti o smentirli addirittura? Molte volte anche di smentire questi cliché, però una volta che mi hai stupito ero in spiaggia e parlavo con una donna che questa donna è stata in Brasile e lei mi diceva che ammirava tantissimo le donne brasiliane. Le ho domandato il perché, lei ha detto ad esempio di un tanga, le donne grasse in spiaggia a Copacabana o altre spiagge portano il tanga. Ho detto ma perché lei le ammira? Perché la donna mi ha spiegato che secondo lei era l'emancipazione perfetta della donna, cioè fregarsi del proprio corpo in funzione di farsi bello oppure nascondersi per lo sguardo maschile, si faceva vedere tutta, completa così com'era e senza proprio fregarsi dell'opinione dei maschi. E tu cosa hai risposto? Dunque, sono rimasta proprio sorpresa di questa interpretazione, però mi è piaciuta tantissimo. Cioè, oggi guardo le donne brasiliane grassi sulle spiagge con il tanga di modo diverso. Il Brasile è uno dei paesi sotto i riflettori degli analisti mondiali, anche dal punto di vista economico, per la costante crescita registrata in questi anni. E tra poco ci saranno, tra l'altro, le elezioni. Chi sono i candidati? Dunque, parliamo di tre candidati principali, no? C'è la candidata erede, tra virgolette, di Luiz Inácio Lula da Silva, l'attuale presidente del Brasile. Questa candidata si chiama Dilma Rousseff, nei sondaggi sembra piazzata molto bene. Subito dopo viene José Serra, che è stato governatore di São Paulo, è un po' più conservatore, e la terza candidata è anche lei una donna, che è del Partito Verde, che è stata già ministra in un governo precedente di Lula, era ministra dell'ambiente. Quindi avete due su tre candidati che sono donne, però non ti è stato citato questo esempio come un segno dell'emancipazione femminile. Per l'osservatrice italiana la cosa che era più eloquente è il tanga sulle persone in sovrappeso. Sì, a prescindere di questo, quando ho parlato con lei ancora non era ufficiale la candidatura di Dilma Rousseff. Ma non credo comunque che la cronaca avrebbe cambiato di molto questo tipo di... No, esattamente. Poi non posso esigere tutta una formazione politica e informazione politica da una signora in spiaggia, ma sì che mi fa vedere l'emancipazione femminile, tramite tanga, quello mi incuriosisce di più. Ma stando lontano dal proprio paese così a lungo, si rischia di perdere un po' quella freschezza dopo un po' di tempo in Italia con la quale si guardava questo paese all'inizio? Esatto, è proprio così. Per questo torno due o tre volte all'anno, torno sempre in Brasile, per cercare di non perdere questo sguardo distaccato, tra virgolette, no? Dall'Italia, perché ovviamente l'Italia è un paese che amo tanto. Però cerco di sempre avere un sguardo fresco, perché dopodiché ti abitui a delle cose che prima non ti abituavi. Ti do un altro esempio. Adesso, tornando da un lungo viaggio che ho fatto, ho preso il taxi e il taxista mangiava un panino mentre guidava, e poi è suonato il telefono, lui ha preso il telefono, mangiava il panino, parlava al telefono e guidava allo stesso tempo. Non ha fatto nessun errore nella guida, però questa cosa mi ha stupefatta. Ho detto, ok, sono a Roma, sono in Italia. E scrivi anche di calcio, perché qui spesso si dice Brasile e si pensa al volto di qualche beniamino. Sì, scrivo anche di calcio. Adesso loro sono molto incuriositi su che prestazioni farà Adriano, per esempio, che lui è molto amato in Brasile. Molto, moltissimo. È ancora molto amato. Molto. Mentre qui ha attraversato delle stagioni di amore e disaffezione, diciamo così. No, ma lui lì ha portato la squadra che c'ha più tifosi al mondo, cioè circa 34 milioni di tifosi. Questa è una squadra di Rio, si chiama Flamengo, e lui ha portato alla vittoria, proprio al sesto titolo della vittoria loro, giusto alla sua grinta. E quando parli di calcio, così ti spendi nell'analisi, non so, degli schemi, dell'allenamento, della partita, o anche lì hai un approccio antropologico? Questo è una visione mia che piace anche a loro, cioè più un approccio antropologico, ma sia di come è fatta la squadra, i suoi dirigenti, che comportamenti esigono del calciatore, ma anche la sua vita sociale, il suo inserimento sociale qua in Italia. Perciò tutti questi sono fattori che alla fine risultano al rendimento o meno del calciatore, non è solo la prestazione atletica. Ho cominciato a domandare a Kaká rispetto al suo rapporto con gli altri brasiliani del Milan, se si vedevano spesso, se uscivano così assieme, cioè la vita sociale, insomma. Lui ha detto che no, preferiva restare in camera sua, cioè a leggere invece di uscire con gli altri. Aveva un ottimo rapporto, lui ha sottolineato questo, con gli altri, però nonostante questo lui preferiva una vita più ritirata, più morigerata. Ma che cosa legge? Lui ha detto la Bibbia, non è che leggeva grandi classici di letteratura, sì, la Bibbia. Senti, in Brasile ci sono anche tanti italiani o figli di italiani, cioè l'immigrazione italiana ha fatto tappa in maniera massiccia nel tuo paese. Esatto, specialmente nel sud del Brasile, parliamo di Rio Grande do Sul, parliamo degli stati del sud, della regione sud del paese. E, che sono Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e anche a São Paulo moltissimi, anche a Rio, eccetera eccetera. Si calcola che sono 25 milioni di oriundi italiani lì in Brasile. Prima in fase delle immigrazioni, circa la metà dell'Ottocento, erano immigrazioni veneta, e poi successivamente sono venuti calabresi e napoletani. E ti sorprende l'approccio che gli italiani d'Italia invece hanno verso l'immigrazione, visto che immagino tu abbia conosciuto gli italiani come emigrati nel tuo paese? Guarda, sì, sorprende nel negativo, dicendo la verità, perché giustamente gli italiani hanno migrato tanto, ma riconosco anche che tante di queste dichiarazioni sono misure populiste per attirare i voti, per restare sulla media, per essere a gala proprio nella notizia del giorno, cioè una più grossa le spara, più di certo va sulla media, perciò con il massacro, tra virgolette, di queste dichiarazioni, alla fine conquista più voti. Per concludere, Gina, quando tu pensi all'Italia, o quando i tuoi connazionali pensano all'Italia, in genere che tipo di associazione fanno? Guarda, sono di diversi tipi. C'è quella bizzarra che dicono: ma io cerco di allenarmi con l'italiano, il brasiliano, dicendomi, no, in Brasile, perciò non ho amici italiani, ma cerco allora di vedere la TV, guardo la Rai. Più di una volta mi hanno fatto la domanda: perché loro mettono queste donne con quei seni così prorompenti che si fanno vedere? E poi anche questa ammirazione magari per i Made in Italy, no? Perché questo è un filo che tira molto, sia i grandi marchi come Ferrari, i grandi stilisti Armani, Dolce & Gabbana e altri, ma anche la enogastronomia. Cosa stai preparando? Cosa scriverai? Adesso, guarda, adesso sono appena arrivata di vacanze, devo vedere un po' se mi toccherà o non fare una crisi di governo. No. Cioè... Quindi non puoi rispondere in questo momento a questa domanda. Obrigada, Gina. Ginnada, un arrivederci, un abbraccio forte a tutti e a tutti gli ascoltatori. Gina Marques de Azevedo dal Brasile, lavora per Globo TV, è stata la corrispondente oggi nostra ospite. Ne incontreremo un altro domani alle 8:15 nel nostro angolo Visti dagli altri, per registrare lo stupore, la sorpresa, le prospettive diverse di chi ci osserva dall'interno del paese, vivendoci, ma essendo portatore naturalmente di una serie di paradigmi, di culture completamente almeno in parte differenziate dalla nostra. E ancora una volta, anche nella chiacchierata con Gina Marques, lo stupore per l'utilizzo del corpo della donna, soprattutto da parte dei media, da parte delle televisioni, stupore che non abbiamo incontrato per la prima volta con la nostra giornalista brasiliana, e che in qualche modo ci porta anche alla tematica di oggi, che ha a che vedere con la dignità delle donne e con il riconoscimento del merito delle donne. Le donne nei consigli d'amministrazione in Italia, una misera quota, 6,2%, rappresentano una minoranza davvero sparuta, almeno per quel che riguarda le società quotate in borsa, questo quanto attestato dai dati della Consob riferiti al 2009. C'è una proposta di legge bipartisan già approvata dalla Commissione Finanze di Montecitorio, che prevede la presenza obbligatoria del 30% di donne nei consigli d'amministrazione, pena il decadimento degli eletti. Vi abbiamo chiesto: una proposta di questo genere aiuterebbe le donne, aiuterebbe le aziende? Questo è il tema del nostro sondaggio di Bianco o Nero. Ancora buona giornata da Irene Zerbini. Partiamo da alcuni numeri, saranno utili a voi per partecipare. 800 24 0024, questo è il telefono. Per i messaggi SMS 349 238 6666 24mattino@radio24.it le email. E di fronte al nostro sondaggio di oggi si sta verificando qualcosa che statisticamente è proprio improbabile, cioè abbiamo un 50 e 50, proprio così. Gli ascoltatori che hanno votato finora si sono divisi esattamente a metà. Una proposta di donne nei consigli d'amministrazione, almeno al 30%, vede favorevoli il 50% di quelli che hanno votato fino adesso. Anche se la domanda, attenzione, è leggermente subdola. Aiuterebbe le donne? Vi abbiamo chiesto, il 50% ha detto sì, o aiuterebbe le aziende? E il 50% ha scelto questa opzione. Ma ci andremo nel dettaglio con i nostri ospiti. Comincio con il salutare Lella Golfo. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno. Fondatrice e presidente della Fondazione Marisa Bellisario e deputata del PDL, componente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo. Soprattutto sua è una proposta di legge per correggere una disparità. Siamo partiti da un dato: la presenza delle donne in Italia nei consigli d'amministrazione delle società quotate in borsa, 6,2%. Siamo il fanalino di coda dell'Unione Europea. Peggio dell'Italia fa solo Malta. Cosa prevede dunque Lella Golfo il testo, così come è stato approvato dalla Commissione Finanze? Ma il testo prevede l'ingresso del 30% di genere nelle società quotate, previa allo scioglimento, se non viene nel momento in cui il consiglio, il primo consiglio di amministrazione, dopo l'approvazione delle leggi, viene disattesa, viene, cioè, lo scioglimento. Perché lei dice di genere? E perché la quota rosa non mi sembra giusto, perché la legge prevede la quota di genere, nel senso che un sesso deve essere rappresentato almeno il minimo, potrebbe essere nel tempo che sono uomini, allora prevediamo anche la quota per uomini. Cioè, se le cose dovrebbero. Sì, sì, è una precisazione interessante. Però, purtroppo non sarà mai così, perché, come lei ricordava, i dati sono quelli e da quei dati bisogna partire. E allora, noi abbiamo calcolato che andando avanti così ci impiegheremo almeno 50 anni per raggiungere questo 30%. Credo che il nostro paese non se lo può più permettere, perché le donne sono la grande risorsa di questo paese. E io, arrivando in Parlamento, la prima cosa che ho fatto ponendomi questo problema, ho proposto non una ma ben tre proposte di legge. Una per quanto riguarda l'autority delle pari opportunità per le aziende a partecipazione statale e enti locali. Un'altra, questa delle quote di cui stiamo parlando, e l'altra riguarda i consigli di amministrazione delle camere di commercio, che anche là c'è un grande deficit tutto italiano. E poi pubblica amministrazione, come giustamente ha fatto notare. Va detto che tra i progetti di legge ce n'è uno anche firmato da Alessia Mosca del PD. Sono confluiti insieme i vostri due progetti? Esatto, il mio, diciamo, che è stato presentato all'inizio della legislatura, quello della collega è stato presentato molto dopo, però ci sono state delle situazioni che potevano essere convergere tra l'uno e l'altro, quindi e su questo si è dialogato. Abbiamo dialogato, quindi abbiamo preso la parte migliore mia, la parte migliore della collega, per cui siamo arrivati veramente a questa proposta bipartisan, tranquilli, e devo dire che dentro la Commissione Finanze della Camera abbiamo trovato un clima di grande serenità, di grande confronto, e soprattutto da parte degli uomini, che noi donne siamo anche là una staruta minoranza, per cui io sono molto molto soddisfatta. Soddisfatta di questo, poi ci si augura naturalmente di questo risultato che alla riapertura questo dialogo sereno possa continuare, anche se c'è il rischio che in Parlamento dobbiate parlare di ben altro. Il problema è proprio questo, perché noi non so, con la situazione che c'è, purtroppo se si va a votare la nostra proposta di legge automaticamente decade e si deve ricominciare da capo, e questo veramente sarebbe un grande danno per le donne, perché insomma siamo proprio alla soglia dell'approvazione. Voglio ringraziare per la pazienza e salutare anche gli altri ospiti di questo programma. Roger Abravanel, autore di Meritocrazia, buongiorno. Buongiorno, come sta? Procede tutto bene. Voglio ricordare che Meritocrazia, il ricavato di questo libro è andato in beneficenza e all'interno vi si legge una proposta che molti hanno fatto propria, anche per criticarla, ne discuteremo tra poco. E buongiorno anche a Rosalba Casiraghi. Buongiorno a tutti. Che è presidente dell'Associazione degli amministratori di società quotate, consigliere di varie società italiane ed estere, tra cui Intesa San Paolo. Buongiorno poi a Anna Zavarit. Buongiorno. Anna Zavarit è l'autrice di un'iniziativa interessante per correggere questa disparità. È un progetto, si chiama Moms at Work, che vuole aiutare donne qualificate a rientrare o a trovare il proprio spazio nel mondo del lavoro dopo la nascita di un figlio e non solo. Tornando ad Abravanel, dicevamo della sua proposta. Coincide con quella delle quote rosa, cioè 30% di donne nei consigli d'amministrazione? La mia proposta era di modificare il codice di autodisciplina delle società quotate per avere almeno due donne nei consigli di amministrazione, ma penso che sarebbe più importante ricordare perché ho fatto questa proposta, perché io non sono un amico delle donne più di quanto non sia un amico degli uomini, sono un amico delle aziende, io sono anche consigliere d'amministrazione. Le nostre aziende sono in grave difficoltà sui mercati internazionali, c'è questa crisi, non abbiamo grandi aziende, l'economia va malissimo. I consigli di amministrazione sono molto importanti, sono quelli che nominano l'amministratore delegato, controllano. In Italia sono molto sottovalutati, soprattutto da chi non sa bene come funzionano le aziende. L'avere una situazione come quella che lei ha descritto, in cui abbiamo pochissime donne, non è un male per le donne, è un male delle aziende, perché vuol dire che siccome le persone che devono andare nei consigli di amministrazione sono le persone migliori e più meritevoli, stiamo discriminando metà della popolazione. Quindi c'è meno possibilità di avere persone brave nei consigli di amministrazione. Quindi la mia proposta, dato che sono consigliere di amministrazione, che vedo come vanno le cose, cioè, il secondo tema, il tema delle quote rose, su cui credo di aver fatto cambiare, io questa mia idea l'ho avuta già 4 anni fa, quindi molto prima che tutti gli amici delle donne nei consigli si sono svegliati, perché fondamentalmente, essendo consigliere di amministrazione, so benissimo che nel momento in cui si fanno le nomine, uno, essendo tutti maschi, tutti nominano dei maschi. C'è una tendenza naturale, lei dice. Ovviamente, io sono consigliere d'amministrazione, nei miei consigli sono riuscito a far entrare qualche donna, ma tutte le volte che io, maschio, dico nominiamo una donna, vengo guardato come un marziano. Allora, ancora oggi. Ci vuole quindi la quota che viene chiamata quota rosa, purtroppo con un nome disgraziato, perché tutti pensano alla politica, no? Nel mondo delle imprese bisogna fare quella che si chiama affirmative action, azioni positive, sì, che ci sono in tutti i paesi moderni, che servono per un breve periodo, 2 anni, 3 anni, non per sempre, per sbloccare la situazione. Nel momento in cui ci sono un po' più donne nei consigli, a questo punto non ci sarà più bisogno di questi e devono essere, le cose cambieranno. Quindi deve premurarsi di inserire questi meccanismi temporanei che non blocchino le menti migliori, secondo lei sarebbe ottimo per l'azienda, per l'innovazione, per la competitività? L'obiettivo è per l'azienda, non è per le donne. Perché fondamentalmente poi le donne chiaramente avranno un grande vantaggio, perché avendo più donne nei consigli di amministrazione ci avranno più donne nelle aziende. Il mio obiettivo è soprattutto anche quello proprio di ringiovanire, rinnovare la leadership delle aziende italiane, che purtroppo è vecchia, tra le più vecchie del mondo. I consigli di amministrazione sono pieni di figli, di nipoti, di persone piene di conflitti di interesse. e quindi professionisti, e quindi questo avrebbe un grande vantaggio per l'azienda. In tema di internazionale, poi la diversità va incoraggiata, anche perché un'azienda che si presenta, diciamo così, a un appuntamento fuori dai confini con manager tutti in doppio petto blu, non ha una grandissima credibilità. Si notano subito le delegazioni di italiani anche per questa assenza di donne nella stanza dei bottoni. Le donne devono essere le migliori donne, no? Il problema che noi abbiamo avuto nella politica è che... Perché gli uomini sono sempre i migliori, i uomini, scusi, a Bravanel. No, voglio dire solo questo, che la selezione deve essere strettamente meritocratica. Chiaro. Come esattamente succede il contrario, addirittura spesso nei consigli di amministrazione gli uomini che vengono selezionati sono tutt'altro che i migliori, quindi bisogna sfruttare questo come un meccanismo per poter essere assicurati che ci sia più meritocrazia. Nel momento in cui ci sarà più selezione dei migliori, a questo punto verrà anche per gli uomini questo. Il problema a partire dalla politica, sai, io sono purtroppo molto contrario, perché siccome nella politica non c'è meritocrazia, perché neanche gli uomini che sono nella politica, nella pubblica amministrazione, nella leadership se lo meritano, immaginare di mettere delle quote rosa lì è un po' poco pratico, perché finalmente la gente penserà che tutte le donne che finiscono lì sono esattamente come gli uomini, non se lo meritano. Potrebbe essere addirittura svilente. Lo chiediamo a Rosalba Casiraghi. Buongiorno. Rosalba Casiraghi è consigliere e quindi può raccontarci, partendo dalla sua esperienza personale, secondo lei, nel mondo che lei frequenta, tra l'altro finanza, banche, le capita di sedersi a tavoli tutti maschili, come vede queste proposte? Beh, non ho, come dire, un occhio favorevole verso la proposta delle cosiddette quote rosa, proprio perché le vedo come... Non ho, come dire, fiducia in quello che può essere l'efficacia di un sistema che è coercitivo. Poi Roger ha detto delle cose molto interessanti a cui mi ricollego. È vero, non, i sistemi di scelta di quelli che sono gli amministratori delle società quotate non sono particolarmente meritocratici, non arrivano solo gli uomini che meritano veramente di arrivare a quel posto. E quindi io credo che sarebbe molto più importante agire su queste leve, cioè cambiare quelli che sono i criteri di scelta, creare una maggior cultura, far capire a coloro che hanno il potere di decidere le persone che vanno nei consigli di amministrazione che bisogna scegliere le persone competenti, che sappiano fare bene il lavoro, che siano dedicate a questo lavoro fino in fondo, e solo così noi potremo allargare maggiormente alle donne questo tipo di ruolo. Cioè, mi faccio capire, Casiraghi, lei dice una riflessione va avviata che abbia al centro però il tema della meritocrazia e questo, certo. Ma non la quota rosa, cioè non conservare posti alle donne tout court. Sono certa che è automatico, perché siccome di donne competenti, professionali, ce n'è tante, a questo punto è cambiare i metodi, non imporre con una legge di mettere una donna, perché altrimenti il metodo sarà sempre quello, quindi sostituiremo magari uomini non particolarmente meritevoli con donne non particolarmente meritevoli. Invece se noi agiamo su quelli che sono i criteri di scelta, cambiamo la mentalità, facciamo capire a coloro che possono mettere le persone, che è nel loro interesse mettere le persone meritevoli, ma è evidente che a questo punto si rompe quel sistema di cooptazione che porta sempre una certa tipologia di individui, molto spesso, non sempre per fortuna, nei consigli di amministrazione. Questo e cambiare la testa, non imporre per legge. Onorevole Golfo, la fermo un attimo, Casiraghi. Onorevole Golfo, cosa risponde? No, rispondo questo, che la dottoressa Casiraghi sa benissimo che le società quotate sono 281 e che i consiglieri sono 2800, le donne sono appena 174. E io ho detto che se andiamo avanti di questo passo abbiamo bisogno di 50 anni. Allora, qual è la sua ricetta o qual è la ricetta che lei ha? Io credo che in questo paese, io non è che sono fautrice per forza, ma se non abbiamo uno strumento legislativo non andiamo da nessuna parte. E io vorrei rispondere con le parole del dottor Passera, che è venuto in commissione a dircelo, perché non credo che lui proprio è uno che ha sposato in toto le quote rosa, ha detto che forzare per legge la nomina di competenze femminili nel CDA, anche se non è un meccanismo idealmente meritocratico, può essere un modo per recuperare parte del ritardo italiano. Le grandi aziende possono e devono fare da capofila. Questo è quello che ha detto Corrado Passer. Tra l'altro mi risulta che le società si stavano dando un codice di autodisciplina. Dove è andato? Una norma necessaria, dunque, secondo lei, equilibrata e temporanea. Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Attenzione, perché il tema appassiona: sono le donne che sono escluse o sono le aziende che di fatto si privano di risorse in maniera poco saggia? Una delle riflessioni sollevate dalla discussione. E la quota è un passaggio necessario, si è divisi a metà anche su questo. 800 24 00 24, al telefono abbiamo una donna, Stefania, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora, intanto rispondo entrambe. Cioè, nel senso che le donne sono discriminate, questo si sa, è inutile dirlo. Secondo me deve partire tutto dalla politica, manca un partito femminile, punto. Cioè, non ci sono altre evoluzioni, sono gli uomini che comandano, quindi occorre che le donne facciano sentire la propria voce. La quota si rende conto solo del nome, come le mucche. Cioè, non riesco a comprendere dove si voglia andare in questa direzione. Le donne ci devono far sentire, io faccio 350 chilometri al giorno per poter lavorare, e mi piace il mio lavoro, lo faccio con entusiasmo, ho due figli, un marito, amo gli uomini, però purtroppo tutto deve partire dalla politica. Grazie. Siamo in tante. Grazie Stefania. Abbiamo colto ancora una volta un tono che torna ricorrente anche nei messaggi SMS: la quota come un elemento che offende la dignità delle donne, quasi un'esclusione del merito, quasi fossero una minoranza da proteggere, non una risorsa da valorizzare. Ma come si valorizzano le donne e perché tanta fatica nell'accedere alla stanza dei bottoni? E non solo, addirittura in Italia, secondo le statistiche, quando si fa un figlio addirittura a trovare un lavoro. Anna Zavarit, buongiorno. Buongiorno. Quindi lei e il suo progetto aiutate con il vostro Moms at Work le donne qualificate a rientrare, a trovare il proprio spazio nel mondo del lavoro, a cogliere. Poi dall'altra parte parlate con le aziende per far capire loro i vantaggi anche economici del lavoro flessibile. Eppure le aziende dicono, per esempio per quel che riguarda il part-time, un'altra entità sconosciuta quasi in Italia, che il part-time costa. Sì, ma il nostro progetto, che è stato sviluppato proprio con la società di ricerca del personale, che è G-Group, per essere operativo e per fare intermediazione di lavoro, punta a far rientrare donne qualificate nel mondo del lavoro. Ricordiamoci che spesso la maternità è una sentenza per donne che prima lavoravano. Solo in Lombardia il 20% lascia dopo la nascita di un figlio, e i dati a livello nazionale sono più o meno allineati a questo. Sono risorse sprecate. Noi abbiamo preso un Le segnalo 5 sms consecutivi che dicono: io sono un imprenditore, perché dovrei assumere una donna se poi rimane incinta e mi sparisce per 2 anni? Si esprimono proprio così. Ma c'è un problema legislativo senz'altro, per cui forse la maternità dovrebbe essere rivista, senza togliere garanzie ma offrendo maggior flessibilità. Nei paesi nordici, ma anche nella vicina Svizzera, la maternità è più corta, però è più facile anche il rientro, c'è un trade-off, per cui magari uno può rientrare prima, dopo i 6 mesi per esempio. Questo ce l'hanno chiesto molti degli imprenditori, ne abbiamo incontrati una 60, però al rientro c'è maggior flessibilità di valorizzare queste donne offrendo moduli di lavoro più flessibili. Perché dovrebbe assumere o tenere una donna? E prima di tutto la questione culturale, cioè ci sono dei pregiudizi, come diceva lei prima, il part time su base oraria a livello proprio di costi vivi non è vero che costi di più, e ha fatto molto scalpore anche questa ricerca per esempio della Sba Bocconi sui costi della maternità, che dimostra che il costo vivo è pari allo 0,23% dei costi del personale, quindi diciamo che il costo percepito è culturale. È soprattutto la mentalità. Rosalba Casiraghi, è d'accordo? Sì, sono d'accordo, e questo mi dà l'occasione, questo intervento che mi ha preceduto mi dà l'occasione di far capire una questione. Quando noi, la legge che è ora in corso di approvazione riguarda i consigli di amministrazione e non sì. Il mondo del lavoro. L'onorevole Golfo prima ha parlato di 2.800 posti di chiamiamo carichi, se ci sono, di cui la metà sono esecutivi. Noi stiamo parlando dei non esecutivi, purtroppo, perché vale molto di più una donna che diventa amministratore delegato rispetto a 100 donne che diventano amministratori non esecutivi, perché è molto più importante il mondo del lavoro e essere a capo. I vertici sono gli amministratori esecutivi, sono i manager e il mondo del lavoro. Lì è il vero problema su cui noi ci dobbiamo concentrare. Mentre se parliamo dei consigli di amministrazione parliamo semplicemente di qualche centinaia di posto che si rivolgono a un'elite, perché parliamo di professionisti, parliamo di avvocati. Comunque c'è un collo di bottiglia, più ci si avvicina il vero problema alla stanza dei bottoni. Del lavoro. Le donne non riescono a fare un passo, i gradini sono sempre molto ma molto pesanti da superare, per cui credo fortemente. Addirittura in termini di disparità salariale, le donne in Italia guadagnano in busta paga il 21,4% in meno degli uomini, ma questa percentuale nel 1998, questa forbice, chiamiamola così, era del 19,1%, quindi si va allargando. Roger Abravanel, lei ha sottolineato più volte come il merito, come si può cambiare questa situazione? Si può cambiare cambiando soprattutto la leadership. Il momento, dato che se noi ci guardiamo intorno, vediamo ai vertici di imprese, di partiti politici, di associazioni, uomini e donne che sappiamo non si meritano essere lì, a questo punto perdiamo la fiducia di poter cambiare nulla. Il modo con cui bisogna cambiare è cercare di dare dei segnali forti e cambiare la leadership. Quello dei consigli di amministrazione con le donne è un modo, l'altro molto importante è quello della scuola. La scuola purtroppo, la scuola dovrebbe essere il creatore delle pari opportunità, perché non dimentichiamo che il signor Obama era poverissimo, figlio di una famiglia di neri di Chicago, però ha fatto questi test nazionali e internazionali standard, ha preso degli ottimi voti, ha preso una borsa di studio, è andato a Harvard, è diventato presidente degli Stati Uniti. Allora la nostra scuola purtroppo non azzera le opportunità, non azzera i privilegi della nascita, non crea opportunità, e quindi chi va avanti sono persone che sono comunque privilegiate, e quindi alla fine purtroppo, avendo una scuola così, avendo un sistema bloccato nella leadership, bisogna fare delle forti azioni che sono azioni positive per cambiare la situazione, e partire dalle donne nei consigli di amministrazione e facendo un'azione positiva come avviene in tutte le parti del mondo, che qui è stata tradotta da Quota Rosa e quindi interpretata male, è un modo per farlo. Purtroppo da questa discussione vengo fuori un po' pessimista, perché due donne che sono alla leadership vedono delle cose un po' diverse. Io sono d'accordo, io mi auguro che la proposta dell'onorevole Golfo vada avanti, perché non è nulla di nuovo, è la legge che c'è in Norvegia, molto simile. Dal 1978, tra l'altro, vogliamo sottolinearlo. Sì, peraltro, vivendo in Italia, conoscendo il sistema in Italia, ho qualche perplessità che se la Fiat non avrà almeno 40% di donne nel consiglio di amministrazione, la Fiat venga sciolta. Cioè, ci sono in Italia purtroppo delle leggi assurde che non vengono realizzate, e quindi sono un pochino più pratico, più pragmatico, e dico mi auguro che vada avanti, eccetera. La mia proposta era molto più semplice, perché si tratta di un codice di autodisciplina, un codice in cui sono le società stesse, i consigli di amministrazione, che discutono e dicono noi dovremmo seguire queste regole. e se uno non le segue deve spiegare perché non le fa. Posso dire che soltanto l'averlo nominato, che sarebbe potuto avvenire, è già avvenuto in quel qualche consiglio di amministrazione, ha già messo delle donne perché si pensava che sarebbe avvenuto. Si è avviata una discussione. Si è avviata una discussione, un po' l'invito a una presenza equilibrata di donne e uomini vige per esempio anche in Spagna. Concludiamo, abbiamo pochissimo tempo, Bravanel. No, ma va bene, avevo concluso. grazie. Lella Golfo, lascio a lei la conclusione. Come vede, sembra che la mentalità sia ancora quella dell'associare la quota rosa, il numero introdotto per legge nei consigli di amministrazione, a una sorta di spintarella, viene adeguato, viene assimilato a questo concetto per molti degli ascoltatori. Cosa ribatte? Ma io, guardi, sono fiduciosa e ringrazio il dottor Bravanel per le cose che ha detto, e io sono perfettamente d'accordo con lui. Questo, la discussione di oggi, ci dice che insomma bisogna continuare su questa strada, perché non è facile, mi rendo conto di altri problemi. Questa nostra società sicuramente va cambiata, ci sono tante cose, bisogna vedere dalla scuola, al lavoro, l'occupazione, la disoccupazione. Ricordiamoci che il 63% delle, 46% delle donne in questo paese è ancora disoccupato, quindi i problemi sono tanti, ma secondo me porsi dei problemi andando avanti così, affrontandoli dove si può, come stiamo facendo, secondo me è un augurio, un senso di volontà. Una speranza, insomma, porterà un risultato. Grazie. Per andare avanti. Grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti, anche a Rosalba Casiraghi, a Anna Zavarit. Sarebbe bello poter parlare così in tutta serenità del merito che avanza e che premia in maniera automatica i migliori, se a parità di numero di laureate, a dire qualcosa che le blocca. Non è che tutte entrino spontaneamente. Rimuovere questi ostacoli è il compito di una società civile. Ci fermiamo per ora, ritorniamo con 24 Mattino domani mattina alle 7:15. Un augurio di buona giornata da Irene Zerbini.